voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Paolo Re, come si fa a far brillare ancora di più un diamante? Di Anna Marino. Il diamante racchiude un legame, il diamante è per sempre, ha un valore intrinseco molto importante sia per la donna che per l'uomo. Parla di un oggetto del desiderio universale, Paolo Re, vicepresidente di Recarlo S.p.A., casa di gioielli valenzana, in particolare specializzata dal 1967 nel taglio di diamanti, 40 milioni di euro di fatturato, 1000 punti vendita. Recarlo ha modificato il proprio assetto societario, diventando mercoledì 8 luglio 2009 società per azioni. Recarlo S.p.A., un traguardo importante per la storia aziendale, partita dalle idee del suo fondatore, il padre di Paolo Re, che ha saputo valorizzare e rendere prezioso persino il suo stesso cognome. Mio papà si chiama Carlo, di nome, è Re di cognome, e quindi quando ha fondato l'azienda ha pensato di chiamarla Re Carlo, anche perché, voglio dire, è un nome, insomma, che suona bene, un nome che ha una storia. E quindi fin da piccolo, quando aveva 17 anni, ha iniziato prima ad appassionarsi a questo settore, uscendo da una scuola di avviamento professionale, che era una scuola tecnica, che insegnava a lavorare i metalli preziosi. Da lì è entrato nella prima bottega artigianale, ha cominciato ad appassionarsi e a realizzare i primi gioielli da uomo, e man mano che andava avanti, mio nonno si è reso conto che mio papà era portato per questo settore. E così decisero insieme di chiudere la fabbrica di scarpe che si chiamava Re Carval e di puntare sulla gioielleria. E questa fu una grande intuizione da parte di mio papà, proprio per il fatto che dopo alcuni anni a Valenza chiusero tutte le fabbriche di calzature. Dall'idea alla sua realizzazione, ecco com'è stato il passaggio, pieno di sacrifici, come spiega Paolo Re. Da quel momento mio nonno stimò, diciamo, il patrimonio di famiglia, che era di circa 7 milioni di lire a quel tempo, e lo mise in mano a mio papà. E con questo patrimonio la prima cosa che fece mio papà fu quella di acquistare un macchinario specializzato per la lavorazione dei gioielli da uomo. Questo macchinario era un macchinario per la diamantatura. La diamantatura è una lavorazione che esiste ancora oggi e si usa soprattutto sulle ghiere degli orologi. È realizzato con un diamante, sono tagli molto ben delineati. Quindi, acquistando questo macchinario del valore di 5 milioni di lire, mio papà si rese conto subito dell'impegno che aveva in questo settore, e da qui iniziò a lavorare con dei ritmi molto alti. Si alzava alle 3:30, 4 del mattino, fino alle 8 del mattino creava la prototipazione, i nuovi prodotti, e dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera curava la produzione. I momenti più importanti erano la domenica e il mese di agosto, perché mentre gli altri si riposavano o andavano in vacanza, per mio papà era un motivo per acquisire nuovi clienti. Da qui andando avanti si è reso anche conto che questa lavorazione era una lavorazione che il consumatore finale non apprezzava più. Quindi i macchinari, insieme a tutto il lavoro, furono venduti. Mio papà ampliò la propria collezione, dalla collezione da uomo a collezione da donna. Successivamente, negli anni, diciamo, 70, entrò anche mia mamma nella parte amministrativa dell'azienda, e venne creata la prima rete vendita all'interno, per poi proseguire con l'inserimento, prima da parte di mio fratello nella parte anche lui produttiva e scelta delle gemme, e io nella parte commerciale e amministrativa con mia mamma. La svolta verso un gioiello al femminile si accompagna a un grande sforzo, anche finanziario, per cercare le pietre preziose migliori. Paolo Re racconta le peripezie di suo padre, ma anche i viaggi avventurosi che divideva con lui. È stata la passione più grande di mio papà, quella di avvicinarsi alle gemme, quindi ai diamanti, alle pietre preziose di colore come rubini, zaffiri, smeraldi, e questo sicuramente ha impegnato molto mio papà a livello finanziario. Questo però ha spinto anche dal boom economico del dopoguerra. Gli investimenti ci sono stati molti, i diamanti furono scoperti in India per poi passare in Brasile, Cile, però fin dagli anni 60 e 70 mio papà ha sempre comprato i diamanti nelle borse principali dei diamanti. Le borse principali sono tre: la prima a New York, a Tel Aviv e poi ad Anversa. Per quanto riguarda invece le pietre di colore come zaffiri e rubini, li acquistavamo direttamente in Birmania. Ha viaggiato mio papà, ma ho viaggiato anch'io moltissimo insieme a lui fin da piccolo. Ci ricordiamo i viaggi in Giappone quando andavamo a acquistare le perle, i viaggi in Birmania per acquistare appunto gli zaffiri e i rubini in zone non proprio battute dai turisti. Mi ricordo quando eravamo in un hotel dove la difficoltà era quella di reperire del cibo per noi occidentali. Erano cibi molto particolari con fiori difficili proprio da accettare, quindi molte volte ci trovavamo a mangiare patatine, Coca-Cola. Il viaggio di oggi invece è più uniforme e blindato, ma sono cambiate anche le garanzie. Recarlo aderisce al programma mondiale di autoregolamentazione Kimberley Process, nato dalla volontà dei principali paesi sudafricani di fermare il commercio di diamanti provenienti da zone in conflitto bellico e di garantire ai propri clienti solo gemme provenienti dai paesi aderenti, in accordo con il sistema internazionale di garanzie, secondo il quale ogni fattura emessa nella vendita di una gemma deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta che ne attesti la legalità. Attualmente viaggiamo ancora molto, il mondo è cambiato totalmente, quindi quando anche andiamo in India o andiamo a Bangkok tutto diverso, quindi si va in uffici dove vengono presentate delle quantità importanti di diamanti, di pietre preziose, e quindi non si ha più il contatto diretto col territorio, ma è tutto molto più distaccato. La nostra vita è molto legata a un fattore di sicurezza, dall'azienda che deve avere dei sistemi particolari al nostro atteggiamento. Comunque la sicurezza noi la mettiamo davanti alla vita, davanti al lavoro. L'ingresso di Paolo Re in azienda è avvenuto fin da subito, dai primi passi, per poi guadagnarsi un ruolo. I miei genitori mi hanno appassionato a questo mondo, parlando e discutendo in casa di quelle che erano le problematiche, di quelli che erano i sacrifici. Ho frequentato le scuole superiori fino ad arrivare all'università, ho fatto l'università aziendale, economia e commercio, e poi ho fatto una piccola esperienza alla Lind & Sprüngli, nel settore alimentare. Questo mi ha aiutato a capire una dimensione più importante, un'azienda più organizzata. Le realtà di Valenza, come anche la nostra, è una realtà più artigianale, una realtà legata alla famiglia, dove si può creare un'organizzazione, però non rientra nella cultura dei fondatori di queste aziende. Quindi il compito che ho io, come anche mio fratello, è quello di organizzare l'azienda con l'inserimento di figure manageriali e quindi dare un po', diciamo, una svolta a questo settore. Ecco come si gestisce il passaggio generazionale in Re Carlo Gioielli. Diverse camere di commercio organizzano corsi sia per i genitori che per i figli, per cercare di affrontare al meglio possibile questo passaggio. Noi siamo tra la prima e la seconda generazione. Questo passaggio è il più delicato in assoluto. Primo perché i miei genitori si sono creati dal nulla e quindi hanno messo, diciamo, le radici in questa azienda. E secondo perché nessuno dei due ha vissuto un passaggio generazionale. Quindi diciamo che il passaggio tra la seconda e la terza generazione è più facile. Noi abbiamo già passato un passaggio generazionale e quindi abbiamo un'esperienza. Detto questo, i confronti, tra virgolette, i litigi che vengono effettuati in azienda sono all'ordine del giorno, ma sono costruttivi. Ed è anche giusto perché non si può avere delle visioni del tutto simili quando c'è una differenza di 40 anni. Quindi è un po' un gioco di lasciare e impuntarsi, sia da parte di noi figli, sia da parte dei genitori. Paolo Re, da poco superati i 30 anni, ha famiglia e figlia che fanno parte del suo equilibrio di vita. È sempre difficile per un imprenditore gestire la vita e il lavoro, proprio perché molte volte si è assorbiti dal lavoro. Ci sono momenti difficili, momenti particolari, come anche quello di questi momenti. Quindi ritengo che sia giusto avere delle ore a disposizione, ritagliarsi le proprie passioni, e questo io lo faccio da sempre, con molta difficoltà. Più volte mi sono chiesto la scuola che dovrebbe frequentare mia figlia, mi sono fatto un po' un film di quello che potrebbe essere il percorso di mia figlia. Non è facile, ci sono tante scelte, ci sono tante scuole, quindi poi questo è un argomento che bisogna affrontare sempre con i propri figli senza imporre niente. Da un intenditore ecco le istruzioni d'uso fondamentali per capire il diamante. Il diamante ha le famose 4C, le quattro caratteristiche del diamante principali sono taglio, la purezza, colore e il peso. Visibilmente il colore e il taglio sono quelli che influiscono nella luce del diamante. Solitamente si vedono diamanti magari con un colore più spento o diamanti anche con un colore bello acceso. Questo dipende molto dalle colorazioni del diamante, come anche dal taglio. Il taglio è in assoluto la caratteristica più importante per far brillare un diamante. Noi utilizziamo al 99% i diamanti di taglio russo, in quanto hanno un indice di rifrazione e riflessione eccellente. È un taglio che viene dalla Russia, un taglio con delle proporzioni particolari, e quindi la luce entrando all'interno del diamante si riflette sulle faccette del diamante e esce sempre dalla tavola del diamante, e quindi uscendo dalla stessa parte che è entrato dà una luce diversa, difficile da riscontrare dall'occhio umano, ma acquistando vari gioielli comunque si riesce anche a percepire questa differenza. Valenza è un distretto piemontese famoso per la gioielleria, da sempre una culla di sapienza che tramanda l'arte dell'intaglio. C'è perfino un prestigioso consorzio valenzano. Chi vi aderisce deve rispettare rigorosamente i rigidi vincoli in termini di composizione delle leghe, porosità dei metalli e altri numerosi parametri. Paolo Re racconta il perché di questa tradizione che è continuata anche attraverso la crisi, anche per la sua azienda, che lì ha il suo polo di riferimento e lì raccoglie 50 botteghe storiche valenzane. La gioielleria è nata a Valenza perché si narra che setacciando le sponde del Po si trovarono delle piccole pagliuzze d'oro, e da qui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, incominciarono a nascere le prime aziende. Da questo prima ci fu un boom della gioielleria, successivamente Valenza, come anche altri distretti della gioielleria e dell'oreficeria, ebbero dei problemi dovuti alla diversità degli usi, dei costumi. Valenza, infatti, man mano che siamo andati avanti, man mano che ci avviciniamo ad oggi, ha sempre diminuito le aziende. Noi abbiamo affrontato questo momento, l'abbiamo sempre preso come una sfida. A luglio infatti abbiamo inaugurato la nuova sede aziendale di 4.900 metri quadrati e abbiamo all'interno tutto il processo produttivo. Per conservare la culla della tradizione orafa valenzana, l'azienda ha dato vita alla Fondazione Carlo Re, che organizza corsi di gemmologia rivolti a clienti e consumatori finali, borse di studio in collaborazione con prestigiose università e laboratori per la certificazione delle gemme. Anche se ha a che fare con il mondo, sottolinea infine Paolo Re, anche se la sua dimensione è nazionale e internazionale, Re Carlo rimane una sartoria valenzana del gioiello. Vogliamo dare risalto all'artigianalità e siamo partiti da una piccola bottega. Mio papà era un artigiano e questo lo vogliamo fare vivere fino alla fine, fino al consumatore finale. Siamo sempre più orientati a un gioiello sartoriale.